Palazzo Chigi stringe i tempi sul piano triennale per l'economia, un anticipo di fatto della finanziaria 2009 contenente anche le linee guida per i 2 anni a seguire. Il testo della manovra economica che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri del prossimo 18 giugno avrà un impatto sul prossimo anno da 13,1 miliardi, con tagli alle spese delle autonomie locali per 3,4 miliardi e di 1 miliardo a carico della sanità. L'effetto cumulato nel 2010 salirà a 20 miliardi di euro per raggiungere 34,8 miliardi complessivi nel 2011, centrando così il pareggio di bilancio, cifre queste messe a punto nella coalizione di governo che creano tuttavia malumore negli enti locali. Sono interventi insostenibili, ha commentato dopo un incontro con il sottosegretario all'economia Vegas il presidente della conferenza delle regioni Errani, che ha chiesto la conferma dei patti sulla salute, sul trasporto pubblico locale, sulle non autosufficienze. È impossibile sostenere una manovra di questo tipo con il contemporaneo blocco delle addizionali, ha aggiunto il presidente dell'ANCI Domenici. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.